col mio studio li stiamo seguendo dai primi tempi, insomma, da quando sono stati emanati i primi fogli di via, e siamo, come dire, molto soddisfatti di queste 6 decisioni che arrivano tutte insieme, anche perché i nostri ricorsi sono stati, direi, accolti in ogni punto, insomma, quindi si tratta sia di forme di legittimità procedurali, formali, ma anche molto di contenuto e di sostanza, e quindi siamo molto soddisfatti. In particolare il TAR ha detto che manifestare con i migranti è un diritto costituzionalmente garantito. E quello è uno dei passaggi, in effetti, che ci piace di più, sì, di queste decisioni, e in particolare dice il Tribunale amministrativo, dice: nessun comportamento pericoloso di rilievo viene individuato in relazione alla parte ricorrente rispetto agli episodi avvenuti in Ventimiglia, quantomeno in termini diversi rispetto all'esercizio di attività connesse alla libera manifestazione del pensiero e di associarsi. Sono delle libertà fondamentali garantite dalla nostra Costituzione, così come è garantito dalla nostra Costituzione il diritto, ma soprattutto il dovere inderogabile di solidarietà. E quindi il fatto che finalmente, no, la magistratura prenda atto di quello che dovrebbe essere in realtà lampante, e che quindi delle libertà fondamentali e dei diritti e dei doveri sanciti dalla nostra Costituzione devono essere in qualche modo legittimati e tutelati, è per noi di fondamentale importanza. Davanti a questo, all'interno invece di un contesto politico-mediatico dove si vuole far passare la solidarietà come un reato. Ecco, a proposito dei reati di solidarietà, poi, come dire, abbiamo visto anche in questi mesi i processi agli attivisti che hanno aiutato i migranti a varcare la frontiera, che si sono risolti o con assoluzioni o con piccole multe, perché invece in realtà il favoreggiamento e l'immigrazione clandestina, insomma, sarebbe potuto tradursi in pene severe. Allora la domanda che mi viene, visti appunto poi gli esiti in tribunale, perché si insiste nel indagare, nel fare oggetto di procedimenti giudiziari le persone che stanno esprimendo solidarietà? Ecco, questo bisognerebbe chiederlo ad alcuni questori e ad alcuni prefetti, e forse in parte anche ad alcuni giornalisti, ma ovviamente danno fastidio dei testimoni scomodi, danno fastidio delle persone che stanno a monitorare, e peraltro non stanno a monitorare con le mani in mano, stanno a monitorare e in qualche modo intervengono attivamente, appunto garantendo quella solidarietà inderogabile in luoghi dove non si vogliono testimoni. Le cronache che ci arrivano da Ventimiglia ci parlano anche dello sgombero del fiume Roia e anche dello smantellamento di un centro presso una chiesa sempre a Ventimiglia. Dunque, qual è la situazione? Non c'è un'alternativa valida per i bambini e per le loro famiglie, quindi dovrebbero anche loro provare a infilarsi nel centro della Croce Rossa, ammesso che ci siano degli spazi, che comunque sarebbero in promiscuità con gli adulti in violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché della recente legge Zampa, quindi non va assolutamente bene, anzi la situazione non fa che peggiorare. L'unica soluzione che politicamente viene trovata è il fatto che queste persone da una parte arrivano a Ventimiglia perché vorrebbero proseguire il loro viaggio, ma sappiamo che questo in parte è impedito dal regolamento Dublino. Dall'altra parte si trovano a Ventimiglia perché vengono respinti molto spesso illegittimamente dalla Francia, e quindi poi a Ventimiglia si crea il tappo. Ecco, l'unica soluzione che viene trovata in tutto questo è botte di ordinanze che vietano di dare da mangiare ai profughi, poi per fortuna l'ultima è stata revocata, lo sgombro con le ruspe del fiume, la chiusura della chiesa dove ci sono i bambini e i pullman che partono settimanalmente per portare questi profughi già ampiamente identificati, alcuni di loro sono stati identificati 6-7 volte, li riportano nell'hotspot di Taranto per essere identificati una 7ª-8ª volta, e poi da lì vengono ovviamente per fortuna liberati e loro si ritrascinano di nuovo verso Ventimiglia in un gioco dell'oca perverso e stupido anche.